Veramente, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh. Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Nel centrodestra non tutti sono del nuovo corso, eh? Non tutti hanno accettato il nuovo corso berlusconiano, Berlusconi, Luxuria, Pasquale. Stasera la voce un po' rauca, meglio del solito, però. Eh? Abbiamo fatto nottata. Ieri racconteremo tutto nel corso della diretta. Ma non c'è niente da raccontare. No, questo lo dici tu, amico mio. Ieri abbiamo incontrato degli psichiatri, amici tuoi. Abbiamo incontrato... Molto utili i psichiatri. Molto utili, elegantissima. Abbiamo incontrato il direttore, il signor Napoletano, con cui abbiamo documentato anche con foto. L'amministratore delegato di questa radio, nonché del gruppo del Sole 24 Ore. Il signor Atreo. E poi c'era Michetta De Cruciani, amico mio. Stai zitto. Beh, allora. Stiamo a ricattopoli qua. Sei veramente un ricattatore. Amico mio. Allora, stavo dicendo. Perché mi scrive Santina Romei adesso? Perché? Ma chi è sta perché? Santina Romei? Come chi è? Uno poi si può chiamare Santina nel 2014. Perché uno questo? Si chiama Santina. Io non ci posso credere che qualcuno si chiama Santina. Poi non è del profondo sud, si chiama Santina. Allora, è una dell'ufficio è una del dirigente. Non ce ne frega niente. Non ce ne frega niente. Che scrive? No, ma perché si chiama Santina? Io vorrei capire. Perché è veramente offensivo. Ma no, ma stupido. Uno Santina si chiama al sud. Questo è di Firenze, è Tosca. Santina, un nome orrendo. Ma ti sembra che uno debba fare una polemica? Comunque, dopo tutte queste cose personali di cui non frega niente a nessuno. Sì. Beh, anche questo è da discutere. Andiamo avanti. Signor Salvini, che dice di aver scelto l'altro Vladimir, non Luxuria. Sì, Putin. Quello che oggi è in Italia, signor Vladimir, un grande statista. Dico io sono molto putin, sono diventato estremamente putiniano, molto molto putiniano. Un figlio di Putin, sì. Sì, assolutamente, no, di Putin, sì. Non di puttana, non offendere mia madre. No, mi sono permesso, ho detto figlio di Putin, il putino. Io ho scelto l'altro Vladimir, io preferisco Vladimir Putin, però ognuno è libero di essere amico anche di Vladimir Luxuria, che è una persona rispettabile. Gaspar ieri da noi ha definito i transessuali una anomalia. Gasparrone, che cosa sono i trans? Sono persone un po' fuori dal comune, quindi sono un po' un'anomalia, francamente, diciamo. Ma è una situazione particolare, perché hanno un fisico di un tipo e poi un comportamento, un orientamento di un altro, quindi francamente, come dire, sono fuori dalla norma, è una cosa anomala, è una anomalia. Stanno attaccando in tutti i modi, ne stanno dicendo di tutti i colori contro Orellana, gli grillini, quello che ha votato insieme al governo e si dice abbia in qualche modo salvato il governo dall'andare sotto sulla, sul documento economico finanziario sarebbe stato molto grave. Orellana dice di non voler essere paragonato a Scilipoti. A me tutta questa cosa mi fa impazzire, però il signor Orellana deve anche rendersi conto che è stato eletto con Grillo, è uscito da Grillo, adesso vota a favore del governo. Beh, perché non dovrebbe essere paragonato a Scilipoti? È esattamente quello che ha fatto Scilipoti. Cioè, Scilipoti è passato con Berlusconi, lui non è passato con nessuno, però vota con la maggioranza. Adesso lasciamo perdere le differenze così di immagine. Orellana, un signore un po' distinto, e Scilipoti era uno un po', diciamo, no, esuberante. Danny De Vito. Ho capito, però uno non è che se succede ad Orellana, non è che uno può dire non paragonatemi a Scilipoti. È esattamente quello che ha fatto Scilipoti. Qualcuno dal movimento l'ha chiamata il nuovo Scilipoti, senatore, lei si sente come Scilipoti? No, assolutamente no, è un percorso diverso, totalmente diverso, politico, io non voglio giudicare neanche gli altri, ma Scilipoti ha fatto un altro percorso. Però ce l'ho qui, Italia paese di merda, voglio fare subito questa rubrica, subito, Italia paese di merda. Lasciatemi cantare. Italia è un'Italia di merda. Con la chitarra in mano. L'ho sempre detto che questo è un paese di merda. Lasciatemi cantare. È uno stato di merda che andrebbe processato. Sono un italiano. Questa è la merda d'Italia. Sono un italiano. C'è un'Italia di merda. Lasciatemi cantare. E ancora una volta la faremo in due parti questa rubrica oggi, Ancora una volta torna Napoli, amico mio, torna Napoli, torna Napoli. Sentite da Mediaset questo servizio sui falsi invalidi, quartiere Pallonetto, quartiere Pallonetto, falsi invalidi a Napoli. È una falsa invalida. Sì, sì, abbiamo fatto tutti perché ci servivano i soldi, li abbiamo fatti. Ustato, vuole solo. Ci fa la tasse, ci fa la chiesa, ci fa la chiesa, ma noi i soldi chi ci dà per andare avanti? Ah no, i soldi chi ce li dà per andare avanti? Sì, sì, abbiamo fatto, siamo falsi invalidi, cioè falsi invalidi come sussidio statale in pratica. Ci mancherebbe, no? Altro che sono falsi, ce lo rivendicano, senti, capito? Prendeva la pensione da falsa invalida. Grande, mica lì c'è graffa, sono vecchio che fa niente. E poi aveva funzionato la falsa, in gelo si c'era una tavola, doveva vincere. Come ha fatto a prendere la pensione lei? No, questo non te lo posso dire, non lo so. Però si fa. È logico che si fa. È logico, è logico. Senti quest'altra cosa invece, Striscia la notizia. Il motorino senza casco con i bambini, 3 in 3, in 4. Sì. Senti. Sai che ci sono. In quattro. Se dovesse qualcuno urtarvi e farvi cadere, non dovrete mai. Pienso Stato, io fai qualcosa contro lo Stato, dice sta cercando i figli nostri. No, lui, perché la figlia mi arriva a casa, non è arreta a me cadere le gambe. In questo modo state distruggendo il futuro dei vostri figli e state distruggendo il futuro di questa città. Normale, ma leva la telecamera e parla a Mao. Leva la telecamera e parla a Mao. Leva la telecamera, parliamo da uomo a uomo. È normale andare in tre, in quattro, senza casco, con i bambini? L'ho sempre detto che questo è un paese di merda. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Altra notizia da inserire in questa rubrica che lei ha battezzato. Dimmi. L'Italia paese di merda. Bergamo, amici miei, Bergamo. Un finanziere con l'auto della Guardia di Finanza e tre complici ha tentato di rapinare una villa di un capo rom. Ecco, capito? Cioè la finanza che tenta di rapinare un rom. Questa è la merda d'Italia. Questo è. A butta. Ritorno alla Zanzara. Oliviero Toscani in diretta da Zurigo. Buonasera. Buonasera, state bene tutti? Non sì, c'è caro. Male. Ma non cosa c'è fai male a Zurigo, amico mio? Ho fatto un po' di casino. Dove sei a Zurigo? Scusa, dove ti trovi? A Zurigo. Ma che fai a Zurigo? Cosa c'è a Zurigo? A Zurigo sono qui, siccome ho studiato, devo fare il libro della scuola, sono tante cose a Zurigo. Poi presentano il mio vino. No, bello, bello. Vabbè, no, un tuo vino a Zurigo? Che, come no, gli svizzeri se ne intendono. Senti, a proposito di Bitonci, del tuo amico Bitonci, amico Parenzo, sì, vuoi raccontare a... Amico d'infanzia, sì, sì. Amico guarda, di Parenzo, Oliviero, il nostro amico Bitonci ha avuto la geniale idea di fare una delibera comunale dove dice che chi entra a Padova, come se Padova fosse il mondo, deve avere un certificato sanitario se è uno di colore, un negro, capito? Perché c'è il rischio che arrivi Ebola a Padova. Quindi lui ha fatto una delibera, lui, la città di Padova, capito? Ma se un negro o se viene dall'Africa, così, se tu arrivassi dall'Africa per esempio, tu di Padova, sì, sì, fai un giro in Africa, torni a Padova, ti fai anche tu? No, quello non è contemplato, diciamo. No, extracomunitari che vengono dall'Africa, che vengono dai negri, come sì, dice lui. Certo, dicono che sia così la delibera, eh? Dicono sia così la delibera. No, ma non può, è contro i diritti dell'uomo. È contro i diritti, no, umani. Ma semplicemente lui non vuole che entrino a Padova delle persone che rischiano di portare l'Ebola. Sì, quello... Come se il sindaco di Milano di qualsiasi città decidesse di fare l'esame a tutti quelli che hanno scopato per vedere se hanno l'AIDS. No, vabbè, che vuol dire, scusa, uguale, scusa, eh. No, ma non è così, dai. Beh, no, ha ragione. Vuole il certificato di buona salute, dagli africani che entrano a Padova, questo vuole. A me dico, va bene, poi è quello, e noi ci mettiamo a ridere, per questo è anticostituzionale. Ho capito, stiamo lavorando a un'ordinanza che vieti la dimora a Padova, anche occasionalmente, di persone... A un'ordinanza che vieti la dimora a Padova, anche occasionalmente, di persone provenienti da paesi dell'area africana, se non in possesso di certificato attestante lo stato di salute. Cioè, certificato medico obbligatorio per chi proviene dall'Africa, non è per i neri, per chi proviene dall'Africa. Per chiunque proviene dall'Africa ci vuole il... Può essere anche Parenzo, allora. Sì, può essere Parenzo, può essere toscani, eccetera, sì, cioè eccetera. Anche un bianco, non è i negri. No, noi razzisti. No, no. Tu sì, dici i negri. Ma no, ti sembra una misura intelligente questa? No, mi sembra una misura da Bitonci, insomma. Non so se cosa vuol dire da Bitonci? Cioè, che vuol dire da Bitonci? Che sinonimo di che cosa da Bitonci? Fino adesso ha dimostrato delle bitonciate, insomma. È un'altra bitonciata, dici un'altra tu? Un'altra bitonciata. Cioè, non serve a nulla. Tu sei terrorizzato dall'Ebola, non te ne frega niente di Ebola? Assolutamente no, perché non è così col terrore che si risolverà il problema. Cioè, è una cosa di terrore, serve solamente terrore questa roba. Sai che c'è una signora anche abbastanza educata, che ha studiato, italiana, sì, che ha detto a suo figlio, tra l'altro architetto, che va in America, ha detto stai attento quando arrivi là, stai attento ai negri, stagli lontano. Cioè, capisci, questo qua ormai è il livello del... Cioè, questo è il livello, c'è un pregiudizio, dici, culturale, un pregiudizio pazzesco. Culturale, sì, però scusami, Bitonci dice che il sindaco e l'autorità sanitaria locale può emanare ordinanze specifiche quando ci sono emergenze sanitarie o di igiene pubblica. Vuole... Ma con questo non è detto che un sindaco possa fare delle cazzate, insomma, può anche farle, insomma. Ma sì, ma certo, non c'è dubbio. I sindaci che l'han fatte, madonna, ti ricordate il nostro... Cioè, chi viene dall'Africa, a parte che bisognerebbe vedere come si controlla uno che entra a Padova, perché non è che, no, cioè... Non è facile. Cioè, come funziona? Che uno passeggia, magari un ragazzo di colore che passeggia per Padova la polizia municipale cosa fa? Gli chiede il documento. Però sono come le robe dei Gentilini, sono in quella zona lì, si vede che sviluppano queste robe qui, non so come mai, deve essere le ombrette del vino bianco che fanno del male. Pronto, buonasera, dottor Cruciale, io l'amo sempre, lei è l'uomo ideale e se fosse una donna io le farei la porta sfilata. Intanto Parenzo, oggi c'è stata una decisione fondamentale della Cassazione, eh? Decisione fondamentale della Cassazione. Praticamente un tizio si è avvicinato ad una collega nello spogliatoio dell'azienda dove lavorava, cioè si è avvicinato ad una collega, sì, e ha detto a questa collega: Giuseppi, cioè Giuseppina, non Giuseppe, Giuseppi, stasera ho un C, cioè ho un cazzo così, ti giuro, così. Si capiva anche se dicevi sì, no, C. No, comunque, sì. No, per essere più chiari, se no... Ah, sennò... no, cioè, ragioni di chiarezza. E certo, poi gli ha dato anche una pacca sul sedere. A lei. Via. Allora, la Cassazione lo ha condannato per la pacca. Perché ovviamente uno non è che può dare una pacca sul culo, molestia, no? C'è un tizio di 55 anni, uno dell'Aquila, eccetera. Violenza sessuale 11 mesi e 10 giorni. Ma lo ha assolto per la frase che ha detto. Vabbè, mi sembra equo, no? Mi sembra una decisione giusta. A me sembra giusta. Cioè, se siete in un ufficio e volete dire a qualcuno: oh, Tizio, sì. Caio, Sempronio, ho un così, vabbè, lo potete quello. Fare tranquillamente, non è un insulto, cioè non è mobbing. Non è molestia, più che altro. Non è molestia. Certo, se poi gli date una manata sul culo, credo, è diverso. E te credo. La motivazione è questa: non commette reato chi elogia la virile tonicità del suo organo sessuale a una collega di lavoro, perché questo tipo di esaltazione è solo un apprezzamento che l'uomo rivolge a se stesso ed è quindi privo di offesa alla dignità altrui. Sì, diciamo però che non è molto normale, no? Dire, no? Vabbè, no. Con noi Oliviero Toscani da Zurigo, dove ha portato il suo vino, non so per quale concorso, non so per che cosa, per venderlo. Ho vinto una medaglia d'argento, fra l'altro. Cioè, per venderlo, forse. No, buono. Roba veramente da radical chic. No, è ottimo quel vino. Lei, faccio il contadino. Lei è molto snob come personaggio, Oliviero. Tu sei molto, molto snob, sei molto. Devi essere snob che un gay come te. No, io non sono affatto. Te l'ha detto. Beh, io non sono affatto gay. Dopo quello che hai detto ieri, mi pare che. Come Parenzo. No, ma io perché non ho capito, tu non sopporti gay. Ma hai visto Berlusconi che hai visto che svolta che ha fatto Berlusconi? Mi fa ridere tutta questa storia qui, vostra degli gay bellissimi. È tutta una finta, secondo te, quella di Berlusconi? Ma ha capito che forse un paio di voti in più li può prendere anche lì. Sì, forse è questo, sì, forse sì, è questo. Giusto, nuovo, magari nuovo. Perde però un voto conservatore, dice no, dice di no. Politico, ma no, anche conservatore. Sai, questi conservatori anti-gay sono i più gay di tutti, Sì, è vero, sono è vero. I più fanatici. Sono. In America hanno scoperto come che Hoover, te lo ricordi il capo della CIA americana? Sì, i più grandi conservatori anti-gay americani. Sì, che ce l'avevano qui. Guardate anche i preti, guardate che la Chiesa cattolica ce l'ha ancora i gay. Anche se c'è stata una svolta adesso, una sì, svolta. Per fortuna. Anche se secondo me è tutta fuffa, perché poi più tardi che mai, no? Senti, ma Grillo com'è finito male? Ma è stato tombato da Merlo. Mi è piaciuto il suo articolo di ieri su Repubblica. Bellissimo. Fantastico. No, ma hai visto, fischiato anche a coso, fischiato ma anche a Genova. Ho dovuto dire ai suoi ragazzi, altro che Circo Massimo, andiamo a spalare a Genova. Pensa quanti voti avrebbe preso. Cioè, invece di fare la kermesse del Circo Massimo, a raccontarsi delle palle uno con l'altro, avrebbe voluto tutti insieme andare a Genova a dimostrare questo. Solo che bravo. Purtroppo i politici non hanno immaginazione e neanche Grillo, che dovrebbe averla perché viene dal teatro, dall'ironia, dalla comica, non neanche lui, appena fa politica va via tutto, cioè non perde fantasia, creatività, l'immaginazione al politico va via perché guardano solamente indietro, sono dei niente. Ma ormai appare addirittura vecchio Grillo rispetto a quelli che ci Grillo sono. Grillo ormai è cotto, ragazzi, è sepolto. Ringraziamo tutti Merlo nel suo articolo fantastico. Vabbè, adesso Grillo e Merlo non è che lo leggono. No, ma dai, è fantastico, ha spiegato bene, cioè ha fatto un articolo da grillino. Ma i fischi sono meritati, secondo te? Cioè, i fischi, la gente che l'ha contestato ma a Genova. Io non sono sempre d'accordo, questi qua bastano tre cretini che fischiano e tu sei fischiato, no? Sì. È logico. Però in realtà quelli che hanno fischiato non hanno tutti i torti, è tutto qua. Perché anche lui ha voluto fare la passerella. Appunto, è andato lì a farsi fare la foto con le mani sporche di fango. Comunque, ragazzi, viva l'Australia, viva la grande Australia, viva Marte, viva la Luna. No, ma l'Australia, non sai la bestialità che dice delle Cruciani. Viva l'Australia che dice agli stranieri con i barconi: non venite perché vi cacciamo, vi respingiamo con i barconi, vi respingiamo, caro Oliviero. Questo è un paese con i coglioni, questo ma è un paese con le palle. Respingiamo, sono tutti gli australiani, sono tutti delle avanze di galera arrivate lì con i barconi e adesso sono così. Dici le stesse. I peggiori svizzeri adesso sono gli italiani. Bravo. Che sono diventati svizzeri. Dici le stesse. Delle stesse cose mie, senza sentirci. No, Parenzo dice le stesse cose mie ogni tanto. Ogni tanto. Senza sentirci. Era una colonia di criminali l'Australia. Forza Australia, viva l'Australia. Ci sentiamo. Ma che ladri, ciao Oliviero, a presto. Criminali, di criminali. Ciao, a presto, ciao. Mangia mosche, ciao. Amore, ti chiedo scusa, amore mio, però non lo faccio più. Più. Dai, sculacciami pure, non lo faccio più. Sono brutto e cattivo. Ecco. Ragazzi, questo non è uno scherzo, eh. È l'onorevole europarlamentare Gianluca Buonanno, Lega Nord, che piglia per il culo il presidente dell'Arcigay Romani, facendo finta di essere un po' effeminato e immaginando un loro futuro incontro. Parenzo si è molto indignato per questa cosa. No, mi sembra appunto una porcheria. Anziché chiedere scusa, ha rincarato la dose. Ma perché chiedere vergognarsi scusa? Perché gli ha dato le frocio? Perché gli ha dato le finocchio? Direi. Ma quello è andato lì. L'amico Romani, che lo conosco, è andato lì a rompere i coglioni a Buonanno e quello gli ha risposto. Scusa. Non c'è scusante. Comunque c'è una proposta fondamentale del deputato del Movimento 5 Stelle Paolo Bernini. Mitico, quello sì, credo che sia quello dei microchip, il signor Bernini, per risolvere il contenzioso in atto con l'India e riportare in patria i Marò. Sai qual è la proposta fondamentale di Bernini? Che ha detto il genio? Senti, l'Italia dal 9 ottobre ha tra le mani 18 marinai indiani arrestati per essere trovati con 70 tonnellate di hashish a bordo della loro nave. Rischiano 20 anni di carcere. Scambiamoli con i Marò. No, mi stai dicendo che questa è una proposta ragionevole? Ti sto dicendo che tra le tante buttate che spesso, cioè spesso caratterizzano la cosiddetta attività dei pentastellati, dei five stars, esatto, questa mi pare tra le tante buttate la meno folle, personalmente. Ma di cosa stiamo parlando? No, e te lo dico io che voglio dire, no? Allora, c'è qualcuno che ancora crede a tutta questa fuffa della Chiesa sui gay? Oggi l'ennesima intervista su Repubblica di un cardinale molto importante, un cardinale che si chiama Daniels, che ha 81 anni, il signor Daniels, eccetera, il quale dice: la Chiesa rispetta le coppie omosessuali, sia le leggi sui diritti. Io voglio dire, ma tutti questi cardinali, tutti questi preti, tutti questi vescovi che adesso, magari per piaggeria nei confronti di Bergoglio, si esprimono a favore degli omosessuali. Dov'era? Ma dove cazzo erano? Prima non l'ho mai sentiti, prima in tutti questi anni non li ho mai sentiti. C'è puzza di truffa, puzza di truffa. Ladies and gentlemen, e adesso i titoli del TG3. Deve dire. Le regioni in rivolta, tagli insostenibili, trasporti e sanità pubblica a rischio, si tagliano le tasse con i soldi degli altri, scontro Chiamperino-Renzi. Il premier polemico, invece di lamentarsi e minacciare l'aumento delle tasse, le regioni comincino dai loro sprechi, discutiamo ma niente prese in giro. Dure critiche dei sindacati, la manovra è uno spot che costerà caro agli italiani, positivo invece il giudizio di industriali e commercianti. Mercati europei ancora in rosso, ma il recupero di Wall Street aiuta, Milano perde l'1,2%, lo spread si impenna fino a 200, poi ripiega. Lutto cittadino a Genova per i funerali dell'ex infermiere travolto dalla piena del Bisagno, la troupe del TG3 nel tratto nascosto del torrente. Due dipendenti meridiano su una torre a 35 metri d'altezza contro gli esuberi previsti dall'azienda, domani a Roma il tavolo con il governo. Non ci sono prove che Berlusconi conoscesse la minore età di Ruby, così in appello le motivazioni della soluzione per l'ex presidente del Consiglio accusato di prostituzione minorile. Siamo con gli ascoltatori all'800240024. Giovanni Ferrara. Ora come va? Oh Giovanni, ancora tu. Ma, sì, quanti, no, ma, no, ma quanti telefoni hai? Quanti telefoni hai, maledetto? Ma no, maledetto. Se non chiamo io, ormai non vi chiama più nessuno, quindi ho avuto un po' di compassione. Allora ho detto, ma li chiamiamo, ma sti ragazzi. Vabbè, allora che vuoi dire? Dai, forza. Ma, cioè, d'altra parte, vedi. Invece di Zanzara, questo è un cretino. Radio... Aspetta, chiamatevi Radio Luxuria. Bah. E la propaganda che state facendo voi a questa Luxuria, povera, ma avrà un nome e cognome questa qua? Vladimiro Guadagno è uomo. Oh, beh, chiamiamolo Vladimiro Guadagno, quindi sì. Un uomo che fa la donna, perché è trans, non so cosa diavolo è. ha rovinato completamente un partito che aveva dei ideali forti, cioè questo partito che era Forza Italia, sì, che ormai è diventato Forza Luxuria, Forza Gay, Forza Luxuria, cioè il vero capo di questo partito ormai è Luxuria con la Pascale. Allora, siccome il vero capo di Forza Italia è Luxuria insieme alla Pascale, sì, io purtroppo, voi siete una radio e non una televisione, ma io vorrei strapparvi in diretta la tessera che io ho sempre avuto da quando Sgarbi si candidò a Ferrara sindaco. Io ho preso la tessera di Forza Italia, meraviglioso quel periodo, sì, ma tirala fuori con... allora sta tessera, Giovanni, tirala fuori, ma ce l'ho qui, ma ce l'ho qui, guarda, ti faccio sentire lo strappo, cioè non è possibile, non è concepibile questa cosa, non è più Forza Italia, non so se ci faccio, guarda, stai lì che ti faccio sentire, guarda, non si sente più, dimmi, dai, fai, eccolo qua. Oh, stai strappando la tessera. Questo è un mentecato. Il problema è questo: io avrei voluto restare in Forza Italia, ma dovevo diventare gay e non mi piace, cioè io ho questo problema, cioè mi sento una minoranza, cioè qui se non sei gay non sei più nessuno, non puoi stare, non puoi stare, cioè io non so. Ma questo lei è ossessionato, lei è un pazzo, no, ossessionato. Io non voglio che Forza Italia diventi partito dei gay, non voglio. D'altra parte ho pensato, passo alla Lega, come fai a stare in un partito dove c'è un segretario che assume la moglie in regione e gli fa guadagnare 70.000 euro quando prima ne guadagnava meno, un segretario talmente poverino che va a chiedere a Grillo se si può fare insieme questa cosa del nome. Vabbè, euro. Quella è la Lega, sì, però che c'entra adesso, cioè, Forza Italia, tu sei di Forza Italia, no, Giovanni, hai detto che uno non sa dove andare. Cioè, stai a casa, non è che la gente ha bisogno di te, stai a casa, vero, no, perché politica mia, bisogna questo farla, perché qualcuno deve governare questo, vabbè, paese. Non ho capito perché hai perché hai strappato sta testa di Forza Italia adesso solamente per questo incontro ad Arcore. No. No, non si sente niente, Giovanni, non si sente. Sì, adesso sì, dimmi. Cioè, diventa, prima fa tutta una battaglia a favore degli animalisti che sono dei quattro cretini, poi adesso fa la battaglia a favore dei gay che sono quattro, forse di più di quattro cretini. Cioè un partito serio deve porsi veramente l'idea di governare questo paese e di risolvere i problemi del paese, non di preoccuparci soltanto dei gay, dei finocchi, di Luxuria, ecco, e basta, si parla solo di questo, o dei cagnolini. È un partito di merda, è diventato questo, non è più Forza Italia, è Forza Gay, non è neanche più Forza Berlusconi, è Forza Pascale. Io non posso stare nel partito della Pascale, nel partito di Luxuria, e però non so dove andare. Cioè, no, ma ho capito, però ma che male ti ha fatto sta Luxuria, poi non ho capito. Ma perché? Cioè, è una persona, ma è normale secondo te Luxuria, Giovanni? No, normale, perché normale sono cioè, i gay non sono normali. I gay non sono normali. Vabbè, non si sente niente, però Giovanni è normale lui. Non si sente niente. Sì, adesso sì, vai. Nel senso che vanno contro la natura, come dicevo l'altra volta, se la natura prevede che un cane vada con la cagna e non un cane maschio, ci sarà una ragione. Allora perché l'uomo può invece trasgredire le leggi della natura e andare con gli uomini, che non ha senso? Lo fanno solo per vizio. Vai, per vizio, perché sono... è un vizio. Ma è un vizio, vabbè, è un vizio. Fanno, ma è contro, sicuramente contro una cosa naturale, non c'è dubbio. Vabbè, comunque... Con il matrimonio gay, mi vogliono spiegare perché... la coppia può essere anche di uomini, allora che di tre, di quattro, di cinque, se cinque uomini decidono di stare insieme perché gli piacciono le orge e sono innamorati tutti e cinque fra di loro, perché non possono adottare un bambino? Ma questo è pazzo, dai, ma Giovanni, dai, ma Giovanni è uno spostato, altrimenti possono essere anche tre, quattro, cinque, un bambino che ha cinque un papà, cinque papà maschi, e va a scuola accompagnato da cinque papà maschi, quanti papà, ma lui guarda, mi spiace, solo un papà e una mamma, no, io cinque papà maschi invece, una meraviglia, dai, e fanno le orge tutte le sere, ma dai, ma veramente, ma che brutta persona è lei, ma che brutta persona è, ma dove è nato, ma dove è cresciuto, la natura ma dai, ma che insegnamento diamo alle giovani generazioni quando noi facciamo vedere due uomini, tre uomini, quattro uomini che adottano un bambino, che si sposano, che fanno sesso fra di loro pubblicamente, che si baciano in mezzo alla strada, ma che insegnamento dai, diamo? Siamo, in realtà è un tentativo. Vabbè, ho capito, hai stracciato la tessera di Forza Italia. No, Forza Italia non si può più parlare di Forza Italia. Vabbè, io Forza Luxuria. Forza Luxuria, vabbè, Giovanni. No, ti devo lasciare adesso. Dimmi. Non si sente niente. Sergio Cagliari, vai. Sergio. Ciao Davide. Dimmi. Io vorrei dirvi un paio di cose, cioè in realtà ne avrei tantissime, però non c'è tempo. La prima su Bitonci, no? Cioè, ma a Padova ci sono delle mura con dei carrelli levatoi, dei fili, anzi lo spinato, cioè come si fa a capire chi entra, chi esce? Cioè, questo è pazzo totale, completo. Cioè, poi l'Africa, cosa vuol dire l'Africa? Sudafrica è un concetto puerile, cioè il Marocco è l'Africa bianca, è l'Africa occidentale. È un chi conto. Viene dall'Africa a cittadini, a persone provenienti dall'Africa, verrà chiesto un certificato medico per capire in che condizioni sono, protezione della propria città. Dico, chi glielo chiede? Cioè, io vado a fare un safari. Ah, infatti, tecnicamente bianco, adesso poi vedremo, magari sarà un bluff, magari sarà un bluff, vedremo. Poi un'altra cosa su Napoli, cioè io sono sardo, no? Non sono del sud, ma comunque la Sardegna è una realtà a parte. Mi sta bene, cioè mi sta bene, mi sta malissimo, però capisco Napoli, povertà, degrado. Ok, ma perché in quattro sul casco? Cioè, cosa c'entra col degrado e la povertà? Ma non c'entra nulla, quella è semplicemente illegalità, che non viene repressa perché non c'è controllo del territorio. Esatto, poi un'altra cosa subito velocissima. Perché non è quel ci sono alcune zone, non solo a Napoli, che non sono Italia, è un altro paese. Ormai è tutto degradato. Allora ragazzi, vogliamo sentirli ancora questi signori che sono orgogliosi di essere dei falsi invalidi a Napoli. Sentiamone uno solo, semplicemente uno, e poi chi li appoggia questi falsi invalidi? Prende la pensione da falsi invalida. Grande, mica li c'è grappa, sono vecchio che fa niente. E poi la pensione la fa, zingeli si c'è la Natale, dove va a vincere. Come ha fatto a prendere la pensione lei? Questo non te lo posso dire, non lo so. Però si fa. È logico che si fa. Alessandra Mussolini dice: non li giustifico, però voi vi rendete conto come vive questa gente? Ci sono dei quartieri senza giustificare, io ecco, non sto diciamolo giustificando subito, perché non si giustificano, come ha detto persone, la Zanicchi, sono perfettamente d'accordo, però, con il fatto che è una truffa gravissima, ma lì in alcuni quartieri di Napoli non c'è più lo Stato sociale, c'è l'anarchia, c'è, lì non ci passa neanche questo una macchina Napoli, della polizia, però, perché non ci può neanche passare, abbandonati, e fanno quello che fanno, senza però giustificare. Ho capito, però se uno non giustifica non è che deve dire però vedete come vivono, non c'è giustificazione, vedete come, perché c'è sempre l'idea che i quattrini, i soldi debbano essere dati dallo Stato, cioè si aspettano i soldi dallo Stato, non si vogliono fare il mazzo così per guadagnarseli i quattrini, aspettano i soldi dallo Stato questi signori, dicono ci dovete dare i soldi perché sennò no, noi è vabbè, giusto che facciamo i falsi, ma non come è no? Sempre così, è come che no? Spesso ma in quelle terre dire non c'è lavoro, c'è gente che non lavora da anni o che non ha mai ma lavorato perché non ha trovato un lavoro dire? E si era ma l'unico lavoro è la truffa, in realtà l'unico, perché è più facile truffare. Beh, insomma. Sì, piuttosto che procurarsi il lavoro è più facile per alcuni. Ma se il lavoro fare non c'è, il fatto che il lavoro non ci sia, che l'Italia abbia una disoccupazione record c'è giovanile, un sacco lo di lavoro, tutti, no? C'è un sacco di lavoro volendo. Beh, dove c'è solo lavoro? Sono lavori che non vogliono fare, perché ci sono un sacco di lavori, ma non li vogliono fare certi lavori. Questa è la realtà. Ma non li vuole fare nemmeno io, però quelli non li vogliono fare, ma non è che non c'è lavoro, il lavoro c'è. C'è. Andiamo a Padova, Gino, buonasera. Vai. Buonasera, salve. Salve a tutti. Potrei fare un intervento anche sui falsi invalidi, falsi politici e così via, però telefonato per un altro motivo. Io sono perfettamente d'accordo con i Bitonci. Premesso che. Bravo. Che il metodo non è attuabile, ma dovrebbero farlo a livello italiano, una cosa del genere. E appunto. Vabbè. Dovrebbero entrare con certificato. Ma non lo fa un Bitonci italiano, qualunque. Ma non lo fa italiano. Il Bitoncino, Gino, Bitoncino, non è sì, che Bitoncino, ma se sì, ogni tu, comune tu facesse ancora gli australiani il pantalone tutti no, gli ma Gino mio, ladri, ma Gino e mio. Ma dai, Ginetto mio, ma Ginetto mio, ma di cosa parli? Ma tu e i veneti siano imbriaghi. Imbecille intanto, buonasera a casa. Tutto bene. Io voglio capire, Gino, ma che cosa vuol dire? Cioè, secondo lei è efficace questo controllo che vuole fare Bitonci? No, non è efficace, l'ho promesso. Non è efficace, non è attuabile. Questa è la follia. Però perché lo fa il sindaco di Padova? ma se a livello italiano ci fosse un minimo di politica decente, ma lo faranno, ci sarà qualcuno che controllerà gli ingressi delle persone, ma cosa vuole che controllino? Vabbè, ma cosa capito, vuole che controllino? Lei per fortuna ha capito che gli australiani si muovono da paese evoluto. Certo, ma questo è chiaro, questo non c'è dubbio, dovremmo su questo non c'è noi, dubbio. Noi ce ne arrivano 2000 alla settimana. Io ho sentito nel vostro emittente l'altra mattina che quella gente lì fino a un po' di tempo fa andava ai funerali, lavava il morto e si cosparteva con l'acqua del morto, capisce? Hanno ragione loro, io sono un troglodita che non lo faccio, ma hanno ragione loro, sono io il razzista e l'idiota, però io me ne sto a casa mia, capisce? Non posso condividere la vera. Il mio territorio con gente del genere, capisce? Il mio territorio dove vivo, Pantalone, dove cresci, Pantalone, sono nato e cresciuto lì, furbetto di Gino, sì, dai, non dirmolare. Tu ti immagini ancora la gente, ti ripeto, l'australiano brigante, l'australiano me ne frega niente dei canguri, a me mi interessa. Hai detto giustamente che è una stupidaggine quello che ha fatto Bitoggi, perché non ha nessun valore se non politico, perché così per agitare perfetto. Lo spettro, allora, di se Ebola. Ha un valore politico, un valore non prendete per il culo, perché la gente la pensa esattamente così. Ma la cosa vuol dire la gente lo pensa così? Non serve a niente, ti rendi conto che ha fatto un provvedimento che non serve a nulla, mi inattuabile? Rendo conto, ma quanti ce ne sono di provvedimenti che non servono e a allora niente? E allora di cosa parliamo? Spetta al Ministero della Salute, no, definire come ci si deve comportare, stilare il protocollo, cosa che ha fatto il sindaco. Ha la responsabilità dell'ordine pubblico, della sanità nelle città. Ma allora scusami, se in ogni città facessero un provvedimento come quello di Bitonci, che cosa cambierebbe? Cioè, spiegatemi. Aumentano i controlli. Ci sono dei controlli in ma più. Ma cosa che ne so, dici? Adesso vedremo. Ma cosa stai, mi fai la voce di cacciare? Dai, falla. Ma che cosa stai dicendo? Ma cosa, malato nella testa sei? Malato nella testa? Ma che Bitonci hai in testa? Ma cosa dici? Andrea, Milano. Ma sì, ciao Giuseppe. Dimmi. Senti, no, volevo dirti una cosa relativamente all'Australia. Io sono sempre, non sempre, ma spesso d'accordo con te. Sì. Però ti rendi conto che questa cosa dell'Australia è veramente una barzelletta? Cioè, in che senso è una barzelletta? Spiegami. È nel senso che per due motivi base, uno banale e uno un pochino più profondo. Quello banale è che chi ci va in Australia col barcone? È pieno di persone che vorrebbero andare, solo che non ci vanno perché c'è questo tipo di politica qui. Ma non ci vanno perché non si va col barcone. Quattro mesi di navigazione. Ma lascia perdere questo. A parte che non è vero, perché da alcuni paesi asiatici... No, non è vero. Non ci sono quattro mesi, come dici tu. Non dire stronzate, Andrea. Non ci sono quattro mesi. Ma da dove, Giuseppe? Ma del mare non ci vanno. Con le carrette del mare non vanno in Australia. Da Singapore ci sono 9 ore di aereo per andare in Australia. Andrea, il governo australiano ha fatto questo splendido manifesto con questa carretta del mare, con questo barcone che si avvicina alle coste. Dunque evidentemente è chiaro che c'è qualcuno che ogni tanto ci prova, o magari non ci prova più. Perché loro hanno fatto il disegno, non vuol dire che c'è qualcuno che ci va. Ma certo che c'è qualcuno che ci proverà, solamente che sono avvertiti i residenti in alcune zone che non si devono avvicinare, perché altrimenti in Australia non ci arrivano bambini, donne, malati, non malati. Non ci arrivano, appunto, questa è la politica. Perché non ci possono arrivare. Ma non è vero, Andrea, dai, su, allora che cosa fanno? Propaganda pure loro, gli australiani fanno propaganda. Sì, gli australiani fanno propaganda. Qualsiasi governo di sinistra, di destra fa propaganda. In Australia, dai, su. E questo è il motivo banale. E poi c'è un motivo un pochino più profondo. Sono 7.000 anni che ci sono flussi di persone da dove si sta male a dove si sta bene. Sì. Ci hanno provato in tutti i modi a fermarli, in modi molto più cruenti di quelli che utilizzano adesso, e non c'è mai riuscito nessuno. Ci sarà un motivo. Si può cercare di limitare. No, ma si può cercare di limitare, ma non è più facile cercare di integrare. Quello è un altro discorso. Qui andiamo su integrazione, chi deve venire, chi non deve venire, quelli che lavorano, quelli che non lavorano. Aiutare in quei posti o no. Io sono contrario all'immigrazione clandestina, capito? Contrario in maniera ferrea, in maniera durissima. Clandestina senza che uno venga perché c'è un permesso di lavoro, senza che uno venga perché ha un lavoro già pronto nel nostro paese. Sono contrario all'immigrazione. Tutti i paesi civili la combattono duramente in Spagna, dappertutto. La combattono, dai. E non serve a niente. Ma tu assumeresti, ma che vuol dire non serve? Del Congo belga che tu non hai mai visto? Ma che vuol dire? Non hai mai conosciuto? E come fa uno a avere un lavoro? Uno che viene dal Congo belga. Ma ci sono moltissime persone che sono venute qua con un permesso di soggiorno, con un permesso di lavoro, in svariati modi che sono previsti dalla legislazione italiana. Andrea, grazie. amico d'amico, fatti i cazzi tuoi. C'è Malgioglio che è esaltatissimo dall'intervista che ha fatto l'altro giorno. Signor Cristiano Malgioglio, mito, una leggenda. Uno dei più grandi intellettuali italiani. Vabbè, io su questo non lo so. Uno dei più grandi intellettuali del nostro tempo, direi. Sì, no, è una persona intelligente. Una persona che ha interpretato alcune cose del nostro tempo, molto più di questi snob intellettuali, come dire, che scrivono sui giornali, che capiscono di politica. Signor Cristiano Malgioglio, molto più vero di tante persone. Signor Cristiano Malgioglio. Ma che meraviglia, io sono pazzo di voi due. Se fossi nata donna non saprei da chi farmi corteggiare, che avrei corteggiato. Beh, no, adesso non esageriamo. Come capito? C'è una differenza, c'è una differenza tra me e Parenzo da questo senza punto dubbio, di vista. Senza eh? Dubbio, senza beh, dubbio. Vabbè ragazzi, andiamo a Ferrara, Emanuele, un altro da Ferrara, non è Giovanni però. Esatto, e anch'io sono come Giovanni, sempre votato Forza Italia e adesso fuga dal partito. Non pure tu stracci la tessera, ma magari non l'hai mai fatta la tessera. Oggi non ne possiamo più, è sempre la solita storia. Beh, ragazzi, qui c'è una ribellione, però devo dire che ognuno la può pensare come vuole, però anche noi abbiamo diritto come etero di esercitare il nostro modo di pensare. Vabbè, adesso che c'entra etero non etero? Qui si sta riconoscendo No, perché di etero non si parla più, viva gli etero, viva la gnocca. Vabbè, ma questo ma dai, chi mette in discussione questa discussione? Ma siamo una follia. Cioè, a te ti ha dato fastidio? Assolutamente no, perché per trasmissioni, per serate, stiamo sempre parlando solo di sti froci, della famiglia, dei bambini che devono adottare, i due bambini che vanno a scuola, ma i tuoi due papà, i miei si inchiappettano. Sì, bellissimo, un mondo fantastico. Però scusami un attimo, adesso io dico una cosa. Ma Emanuele, che cosa che ti ha dato fastidio a te? Vedere il tuo capo Berlusconi circondato dalla Pascale e da Lussuria allora, insieme? No, innanzitutto mi dà fastidio questo saltare da una sedia all'altra. Cioè Vladimir Lussuria era di sinistra, sì. Era nel PD. Ma che cazzo vai a No, nel PD no, mai. Berlusconi, cioè, ma... Vabbè, non è andata con Berlusconi, è andata a parlare con Berlusconi per convincerlo. Vabbè, per cosa? Per magari... Convincerlo sul matrimonio, per convincerlo... Il matrimonio aveva sempre pensato alla rovescia, adesso arriva una fighettina di 26 anni e gli fa perdere la testa. Tu dici che è questo il punto? Tu dici che è questo il punto? Ma lo sai che è fortissimo il potere della gnocca, dici? Assolutamente, e soprattutto alla sua età, sai, una di 26. Beh, sì, non c'è dubbio. Magari cambiare modo di pensare, a mio modo di vedere. Va bene, ciao. Marco Napoli. Ciao. Marco. Buonasera. Dimmi. Salve, dottor Cociani. Intervenivo per quanto riguarda la situazione di Napoli. Mm. Io lavoro a Napoli, sono di Napoli, sono nato e cresciuto. Purtroppo devo essere completamente d'accordo con lei per quanto riguarda determinate situazioni. Oltre al degrado... Vabbè, quello lo sappiamo, sì. Sì, ma la cosa più grave è proprio la mentalità delle persone. E allora? Dica. No, ma la mentalità delle persone quale? Non ho capito, Marco. Riferimento a cosa? Ai falsi invalidi? Riferimento anche al fatto dell'intervento sentito per radio, che ho 4 sullo scooter, la signora che piglia la pensione perché... poi se ne è di camma fa. Non è giusto, e quindi se non ci sarà un intervento dello Stato forte non si potrà risolvere. Ma che vuol dire intervento dello Stato? Basta intervento dello Stato. Marco, ciao. Alla Zanzara, ragazzi, grande ritorno. Il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini. Buonasera. Ciao caro, ciao. Come stai? Come stai, Maurizio? Di salute molto bene. Di umore? Da italiano molto male. Perché? Che è successo cosa adesso? Sono triste, questo paese è alla deriva, sta morendo. Stanno facendo tutti per affogarlo ancora. Leggo dei titoli sui giornali. che mi sembrano nel periodo di Monti, quando risoltavano che si risolveva i problemi dell'Italia. Ah, tu dici che Renzi non affrontano il problema vero, che è quello della mancanza di posti di lavoro, quello di creare ricchezza. Vabbè, di ma lui vuole eliminare l'articolo 18, vuole cercare di fare... Ma non serve a niente. Tagliare le tasse. Non ci sia, ma non ci sia. Poi parla di 3,8 miliardi di recupero dall'evasione fiscale. Ma stiamo uccidendo il paese, ma non con le tasse, con l'inquisizione fiscale. Perché questo paese sta morendo, ha cominciato Tremonti con le leggi su Equitalia, con tutte queste cose qua. Io che sono un imprenditore, che faccio l'imprenditore da 50 anni, ho creato migliaia di posti di lavoro e ricchezza per questo paese, sono vessato, perseguitato da uno Stato canaglia. Io voglio che qualcuno dello Stato mi denunci, così almeno di fronte a un PM dimostrerò quant'è canaglia. Scusami, Maurizio, tu stai dicendo che le previsioni di Renzi sul recupero dei soldi dall'evasione fiscale significano semplicemente, io questo pure l'ho sospettato, cioè un maggiore ti spiego, nel Medioevo il signorotto, quando voleva mangiare più pane, mandava i bravi dal contadino e li fregavano nel granaio il grano che aveva messo via per seminare l'anno dopo. E l'anno dopo così il signorotto non aveva né il pane lui né il contadino. Le sementi di questo Stato qui sono i piccoli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, quelli che hanno creato posti di lavoro, li stiamo uccidendo tutti e non semineremo niente. Loro continuano a prendere ricchezza che non produciamo, distruggendo quella che abbiamo ancora messo a via. Però scusa, Renzi adesso ha la Confindustria ha appoggiato la manovra tutti, di Renzi. Ma sì, ma sono tutta un'organizzazione delinquere. Pure, insieme. Confindustria pure. Ma come delinquere? Ma tutti insieme, non rappresenta nessuno. Ma bisogna mettersi attorno al tavolo, vedi? Mi ha fatto piacere quando Della Valle, con un imprenditore serio, ha detto io scenderò anche in politica. Io non scenderò in politica, ma bisogna mettersi intorno a un tavolo e trattare questa Italia come fosse un'azienda, l'economia di un'azienda. L'economia, cioè, tu sei d'accordo con Della Valle? No, sono d'accordo che questo paese va rivoluzionato. No, d'accordo, però quando Della Valle ha parlato in quel modo di Renzi, tu sei d'accordo con lui? Non ho sentito cosa ha detto di Renzo, ho sentito cosa dice dell'economia. Io non mi interessano quando dico delle persone. Insomma, se Renzi scende in politica Della Valle, tu puoi andare, ti piacerebbe appoggiarlo? No, io penso di no, io penso che in questo momento qui, ho detto ci vuole anche lui, vedi, entra in un tavolo, ci vuole anche lui. Ci voglio io, ci voglio Renzi, ci vuoi tu, ci vuole l'Italia vera che lavora. Ma Renzi ti convince con questa manovra che ha fatto, sì o no? Assolutamente no, Renzi non capisce niente e non si avvale di collaboratori all'altezza, sta facendo quello che hanno fatto gli altri, uguale identico a preciso, distruggendo ricchezza, mantenendo lo Stato che costa uno sproposito in un paese che non produce più ricchezza. Ma cosa vuol dire mantenere lo Stato, Maurizio mio? Le strade, i negozi che chiudono tutti i giorni, gli artigiani chiusi. Ma lui adesso dice che vuole ridurre le tasse, 18 miliardi di tasse in meno. Ma sono tutte balle. Quando lui dice adesso gli imprenditori potranno assumere, ma quando mai? Cioè non hanno alibi e devono assumere per forza. Questa ma pure... No, ma stanno dicendo delle stronzate sui giornali, e Renzi anche, sono stronzate. E attualmente si nascondono dietro queste cose qui e nascondono il dramma vero di questo paese e dell'economia vera, che sono, ripeto, gli artigiani che chiudono, i negozi che chiudono e le fabbriche che chiudono, la disoccupazione. Devi sapere che in Austria in Carinzia vanno 20 aziende del Triveneto al mese. Lo so, la Carinzia è diversa dall'Italia, appunto, Zamparini. Ci sono meno tasse, è uno Stato, ci sono piccolissimo, è uno Stato di diritto. Allora, ma sono d'accordo, ma è piccolissimo. Ma scusami, ma come fai a paragonare un paese come l'Italia, con milioni di italiani, con l'Austria, che è uno sputacchio di paese? Sto dicendo che. Ma c'entra anche quello, no? Lo Stato di diritto deve ritornare al titolo di diritto in un paese come di un milione, come di 100 milioni. Senti, ma alla fine ve la fa pagare la polizia, gli straordinari della polizia, Renzi, o no? Ma è un'altra stronzata che mi si impiedi. Quando l'ho detto, avevo un ospite io settimana scorsa, che era un politico importante di un paese straniero, che era da me, e gli ho detto sta cosa qui, si è messo a ridere, ma dice, ma quello è tutela dell'ordine pubblico, cosa c'entrate voi? E ho detto, in Italia è così, per cui lo Stato che prende ma alla fine va avanti su questa roba qua, o no lui? Ma che lo faccia, ma non è tutta demagogia, ma cosa vuoi che ce ne freghi? Il problema non è questo qui, il problema è quello reale dell'economia di questo paese, che è morto e lo stanno uccidendo ancora. Ma alla fine, se ti dicono devi contribuire agli straordinari delle forze di polizia, lo farai tu o no? O ti pare veramente una stronzata pazzesca? Ma è una stronzata pazzesca, è è veramente una stronzata pazzesca, perché il problema non si risolve così. Il problema si risolve dicendo alle società: all'interno dello stadio sei tu responsabile dell'ordine pubblico, però ti diamo una legge in maniera che i sorveglianti che paghi tu abbiano le funzioni del poliziotto e possono fermare chi delinque, punto. Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. Looking for adventure in whatever comes our way. Abbiamo con noi il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini. Senta Zamparini, ma lei non dà credito nemmeno a Renzi? Cioè, sto famoso articolo 18 serve? Lei che è un uomo d'azienda. Serve a nulla. Serve, cioè, bisogna cancellarlo oppure... Ma così, che ci sia, che non ci sia, non cambia niente in questo paese in questo momento qui. È stato fatto in un momento particolare di grande crescita dove bisogna tutelare determinate cose, è diventato solo demagogia, non serve a nulla. Poi lo chiede a Zamparini, che è uno che se vuole licenzia subito. Gente, no, ma perché licenzia Zamparini subito? Zamparini licenzia senza articolo 18. Ma che c'è, tra gli allenatori li licenzia perché... Ma no, ma dico in generale, cioè, Zamparini non è che c'è l'articolo 18, se c'ha una ristrutturazione aziendale lo fa con, cioè, senza articolo 18, cioè non è che, te lo sta dicendo, non è che c'è un impedimento a licenziare in Italia. Bravo. Lei bravo. Come... Questa Italia va ricreata completamente, l'articolo 18 non serve a nulla, ha creato i posti di lavoro che è la cosa principale di questo paese, sì. E questo paese che è ricco deve tornare a produrre ricchezza come Made in Italy, sì. No, stiamo distruggendo i nostri i nostri artigiani, i nostri... Zampa! Io fonderò adesso un sindacato ancora dei contribuenti. Ancora? Sì, no, che mi scrivono a me tutti, facciamo un sindacato forte, che non c'è nessuno che difende il cittadino in questo paese, nessuno! Senta un attimo, ma c'è un tizio che è stato indagato, anzi è stato condannato a pagare un vicentino, 43 anni, si chiama Andrea Ghiotto, ha avuto anche dei fallimenti eccetera, ma è stato condannato a pagare €1 milione perché ha detto che evadere non è un reato grave. E l'Agenzia delle Entrate ha calcolato un danno d'immagine, e sarà costretto a pagare, oltre ad altre cose in cui è coinvolto, €1 milione, capito? È lo specchio di questo paese. Bene, anche quella. Ma fa bene a dire che evadere non è un reato grave, questo signore? Ma no, vedi, evadere è un reato, ma colpire un cittadino perché non riesce a pagare non è che non è evasione, è ancora più grave. Lo Stato canaglia è più canaglia dell'evasore, cioè, lo Stato rappresenta tutti noi. Lo Stato è peggio dell'evasore, dici tu? Molto peggio. L'evasore va colpito, ma duramente. Ma quello che evade, non inventarsi gli evasori, loro si stanno inventando gli evasori. Però scusami un attimo, chi evade è giustificato in qualche modo? No, chi evade no. Ma chi non riesce a pagare perché è in difficoltà e ha denunciato quello praticamente d'accordo tutto e non riesce a pagare, va aiutato, non va ammazzato. Senti, a proposito, ma tu com'è che non hai ancora cacciato il tuo allenatore? Ma ne ho cacciati così tanti che mi sono stufato. Cioè, c'è stato un cambiamento radicale quest'anno, Zamparini. Cioè, sarà la crisi, sarà qualcos'altro, non quanto lo so. È durato, cioè, questo? Lo stipendio, alla fine non ci vuoi rimettere un altro stipendio in più, o no? No, non è quello, è che con Iachini è un rapporto da padre a figlio, è nato con me, è stato il mio capitano nel Venezia. Non te la senti, anche è se... È un ragazzo molto serio, va aiutato molto e lo stiamo aiutando e penso che verrà fuori bene. Però non te la senti, c'hai avuto a un certo punto... No. Hai avuto no. La tentazione per qualche minuto, per qualche ora o no, sì? No, ho esaminato come fa un imprenditore la situazione in tutti i suoi dettagli, il perché e il per come, perché naturalmente è una situazione dalla quale noi dobbiamo uscire e ne usciremo. Buonanotte. Però hai avuto il Zamparini di un tempo, l'avrebbe cacciato, diciamo la verità, se... o no? Penso di sì. Cioè è cambiato anche Zamparini. È invecchiato. Sei invecchiato un po', con l'età, dai. Con l'età si diventa anche più saggi, no? Appunto, magari risparmi uno stipendio. Cioè, quanti allenatori stai mantenendo tu? Quest'anno pago solo Iachini, gli altri anni ne mantenevo due o tre alla volta. Tu avrei pensato, basta con questa storia, poi ne devo prendere un altro, devo ricostruire un rapporto. Vabbè, dai. Tutto un casino, dai, su. No, il calcio non è un casino, è l'unica cosa sana di questo paese, non lo vogliono sputtanare. Almeno il calcio che è un bene sociale, non è un bene mio, degli presidenti, è dei nostri tifosi, no? Almeno lasciamoli questa cosa qui, e dico, è la crisi del calcio. Ma i messicani, calcio, perché non vuoi... Ma è vero che tu sei in contatto con i messicani per il Palermo, con gli imprenditori messicani? Ma no, ma i giornali sparano dei... E che ne so, ho letto. Siccome vendono poco, sparano delle cazzate. Non è niente, non ci sono messicani. Ma no, sono venuti perché si sono proposti per sponsor, fare vernici, per fare lo sponsor, e il mio amministratore sta trattando. Magari arrivasse qualcuno che vuole entrare dentro il Palermo. Però calcio, è vero, però anche in Italia, esatto, in Italia si informano che non è uno stato di diritto e non vogliono venirci. Cioè, tu dici è impossibile che qualcuno venga qui ad investire? Ma cioè... nel paese no, sanno che non è uno stato di diritto, per cui c'è questo che ci vengono a fare. Ma non per l'articolo 18 vi sta dicendo. Ma no, sì, ma per miliardi di altre cose. Hai ragione. E dai, ecco l'articolo 18. Senti una cosa, Maurizio. Io faccio l'imprenditore a 50 anni, non so cosa sia. Ma spiegami una cosa, ma ha ragione Platini quando dice che la Moiola non la vuole, che sarebbe la fine del calcio? Platini deve ricordarsi che faceva filo qualche anno fa il giocatore e che sparare sentenze non è un compito suo. Dunque ha sbagliato a intervenire in questo modo. No, non deve sparare sentenze come lui fosse quello che sa tutto, che cazzo sa. Dici non sa una mano, non sa, cioè non può perché decidere. Perché l'hanno nominato lì il presidente dell'UEFA, pensa di essere uno che dice che decide. Abbiamo già Blatter che pensa di decidere il calcio lui non conoscendolo e dice che siamo razzisti noi, lui non si è neanche presentato a premiare l'Italia quando ha vinto i mondiali. Pensa un posto svizzerotto che si chiama razzista. Che ci vuole, dici che ha punito da vecchio per quella roba lì, no? Ma cioè... no, no. Vabbè, oh, intanto l'hanno punito anche se è una punizione così un po'. Non è che hanno punito, io sono rimasto sconvolto dal titolo di un giornale sportivo, ha detto che lezione Italia, ma quale lezione, da chi? Da Blatter, dici, non ci può... Da quel pulpito lì, ma per l'amor di Dio. Non ci può dare lezioni, dici tu, di moralità. No, assolutamente, di moralità. Possiamo dare noi a lui tante. Però devo dire una cosa, Maurizio, che Platini ha anche detto che non vuole la Moviola. E che le polemiche in Italia sugli arbitri sono ridicole perché tutti ce l'hanno sempre con chi vince, cioè con la Juventus. I romanisti sono arrabbiati moltissimo, hai visto oggi come ha detto anche il portiere. Sai, ma Platini è il francesino che c'ha la puzza sotto il naso, perché dice voi in Italia siete un popolo, non siete un popolo all'altezza. Cioè, no? ci tratta come sudditi. Bravo, bravo, e questa è la loro mentalità. Tu dici non dovrebbe parlare dell'Italia, o di cose italiane. Ma no, che parli dei cavoli suoi, dei francesi. Non si deve intromettere su cose italiane, la Juventus, anche perché non è che non si deve intromettere, lascio che si intrometta, non dobbiamo darci peso noi. La Roma sono incazzati come bisce per quello che ha detto, Ma non lo so, io lo sai, ormai i giornali li leggo li leggi poco, li leggi poco. Sì. Senti, ma a Tavecchio vogliono dare, sai Parenzo, vogliono dare a Tavecchio l'Ambrogino d'oro, è stato proposto per l'Ambrogino d'oro, stupenda. Beh, meraviglioso, l'Ambrogino d'oro a Milano. Oddio, è vero che avendolo vinto anche noi, sai. L'abbiamo vinto anche noi l'Ambrogino d'oro. L'anno scorso. Ma scusa, qual è il problema? Non credo, a Tavecchio gli vogliono dare, credo la Lega a Milano, l'Ambrogino d'oro. Sì, ma ti ricordi cosa ha detto Tavecchio? Tu daresti un premio o no a Tavecchio? No, non gli darei un premio, ma non l'avrei neanche criminalizzato. Cioè, quella frase che lui ha detto, sì, se l'avessi detta io, che mi conoscono, siccome io non ho lotto di potere con nessuno ci avrebbe fatto caso. Beh, siccome lì lo volevano attaccare, l'hanno preso a pretesto perché è una lotta di potere fra il clan Agnelli e il clan Lucito, punto e basta. Ah, per quello dici, solo per quello? Perché cosa, scusa? Perché i giornali di chi sono? La Gazzetta, il Corriere della Sera, di chi sono? Perché tu in questa diatriba, per esempio, tra Marchionne e Agnelli, con chi stai? Con Marchionne, quando dicono che gli Agnelli hanno telato, sono scappati dall'Italia? No, non con Marchionne, con stai parlando. Cioè, scusa, con Della Valle, sì, Della Valle. Sì, sto con Della Valle, sicuramente. Sì, perché tu dici anche gli Agnelli hanno preso tanto dall'Italia e poi via, fuori. Esatto, hanno sempre fatto così. Tu dici, Parenzo, è d'accordo con te? Hanno fatto come i piemontesi quando hanno cosiddetto liberato il sud. Sono arrivati, si sono portati via tutto. Mi pare di buon senso. Zamparini, peraltro, è uno che è italiano, ha investito in Italia, cioè, paga le tasse anche all'estero, ma paga le tasse qui, non come il tuo amico Marchionne. Ma perché Marchionne è uno scandalo, scusa Zamparini, è uno scandalo che Marchionne paghi le tasse svizzera? Beh, no, certo. Non me ne frega niente, però che venga a darci delle lezioni a noi italiani come si fa l'imprenditore, no. Capito Parenzo? No, io sono d'accordo con lui. È certo, iscritto al partito di Della Valle ormai Zamparini. No. È iscritto al partito di Della Valle. Della Valle sono amico e non sarò mai del suo partito. Ho detto che ci vogliono imprenditori anche come Della Valle per mettere in piedi questo paese come un'azienda, l'economia di un'azienda. Sì, però ce l'ha troppo con questi Agnelli, no? Che in fin dei conti questi qua... Io non ce l'ho con gli Agnelli, né con nessuno. Beh, no, non ce l'ho. Io hai detto che hanno una domanda, mi dice stai con Della Valle, sto con Della Valle, ma non sono amico degli Agnelli. Hai detto il loro pensiero, ho sempre ritenuto la Fiat un potere, un centro di potere, e lo è ancora. E sono scappati dall'Italia adesso? Detesto tutti i poteri. Ma sono scappati dall'Italia adesso? Ma no, ma io, vedete ragazzi, quando 15 anni fa, sembrava che la Fiat fosse disastrata, che fallisse, che le banche dovevano intervenire, ma la Fiat è diventata un colosso mondiale, che con la crisi delle automobili, con tutto. Beh, sono stati bravi, perché che hanno fatto? Hanno truffato, secondo te? Fa parte della globalizzazione con le multinazionali, sono in quella cricca che si raduna in quel Bilderberg, quel castello là. Ma quale Bilderberg? Ma dai, hanno fatto un'azienda, hanno messo voi, la sede. Dormite. Ma che Bilder? Quando sarete col culo nella merda completamente, vi sveglierete. Vabbè, ciao Maurizio, ciao, a presto. Ragazzi, ciao. Intanto vi benedico e vi esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ehi, ciao ragazzi, vi voglio bene, ciao. Allora, innanzitutto la zanzara è diventata un antogramma dove si prendono dal conduttore. Il conduttore è un imbecille e quindi si circonda di imbecilli, d'accordo? E in tutti i sensi. Da Brescia, buonasera Renzo. Buonasera Giuseppe, ormai in giro si dice che sei un vero e proprio Trombeur de Fan, io lo so. Com'è che si dice, scusa Renzo? Trombeur de Fan. Ci siamo capiti. Ascolta, due cose veloci, io avevo telefonato un'ora fa perché quel signore delle betonciate, no? Beh, le betonciate mica tanto a quel punto qua, perché abbiamo visto l'Australia. E un'altra cosa, l'Australia, sono anni che comunque se non hai la sana robusta costituzione o malattia non entri in Australia. Betonciate anche queste, quando li fanno gli altri vanno tutto bene, che funzionano. Facciamo qualcosa noi qua, ci sono sempre problemi. Sì, razzismo, sì, tutto quello che i controlli sull'immigrazione non vanno fatti da noi, o comunque sono vissuti come razzismo. Esatto, quando lo fanno gli altri, tutto un paese civile, nessuno ne parla, dai su. Un'altra cosa, Giuseppe, velocemente. Mi senti? Sì, ti sento, vai. Tornando indietro a Renzi, io lo vedo un vero e proprio Pilato, sì, quello. Se ne lava le mani, questo qua se ne lava letteralmente le mani. In che senso? Questo qua, nel senso che dovete le regioni devono tirare via un miliardo di qua, le regioni si passeranno ai comuni, e i comuni a chi? Ai cittadini. Lo so, questa diminuzione di tasse annunciata potrebbe rivelarsi un bluff proprio perché... Ascolta, io vado in Toscana, conosco i toscani, ho parlato proprio oggi con un toscano, ma vedo che quello personaggio qua è fumo negli occhi. Vabbè, che c'è, hai parlato con un toscano, qualunque, che vuol dire, dai? Non con un toscano, vado giù. Tante volte in Toscana. Vabbè, ho capito, però non è che uno parla. Comunque sia, Giuseppe, vediamo quello che succede. Perché alla fine dei conti. Che vedremo quello che succede, non c'è dubbio, perché speriamo di non morire domani mattina. Su questo non c'è minimo dubbio. Ti ringrazio, Giuseppe. Ciao, Jean-Pierre Trento. Pronti? Dimmi, caro. Eccomi, Cruciani, ascoltami. Ma sai una cosa? Ma sai che sei un po' ignorante, Cruciani? Sì, ma sicuramente sono un po' ignorante. Jean-Pierre. Non sono, come dire, non sarò sicuramente acculturato come te. No, ma non lo sono per carità, ma cioè, a me mi stupisce quando tu, una persona, cioè, perché la radio per me ha una base, ha una funzione un po' educativa, no? Ah, per me no, e assolutamente. Tu... Allora... mi dispiace. Hai smontato tutto il discorso. Allora. No, ma appunto, ma come fai, Cruciani, ad appoggiare un deficiente come si chiama, Buttonci, come si chiama? Guarda che io non appoggio nessuno, sì. Perché non voto a Padova innanzitutto, e dico che alcune cose che riguardano il decoro della città sono sacrosante. Ma in questo l'ho caso, detto cosa e lo ripeto, vuol dire decoro? In questo caso, parlavo di altre cose. Pura, scusami, Parlavo di altre cose. In questo caso... Sì, l'accattonaggio, ad esempio. Ma diverse cose che riguardano il decoro della città. Ma cos'è il decoro? Cosa il decoro, la vista, uno deve la città deve essere bella. Guarda, allora vuol dire che se anche un italiano, anche tu, se butti quello sigaro puzzolente che fumi, quante volte lo butti per terra, per strada a Milano? Allora anche a te devono multarti, giustamente, scusa. O soltanto gli immigrati. Ma che dici? Allora i ragazzetti che escono da scuola e quelli che vanno allo stadio e che lordano la città intorno allo stadio? Il decoro riguarda chiunque, non soltanto gli immigrati. Questa è la stupidaggine dei provvedimenti che vengono presi. Su. Sì, ma lascia perdere questo. Io sono d'accordo. d'accordo. Non lascio nulla, perché se si multa chi butta per terra una cicca, come avviene in Svizzera, come può avvenire, allora benissimo, sono d'accordo, multiamo chi butta per terra una cicca, chi lascia lo spazio, ma non è che riguarda gli immigrati, questa è la stupidità, sì, delle cose. D'accordo, ma lascia perdere, quando c'è un provvedimento che riguarda... Allora fai così, multa anche le persone che hanno, che girano per strada con la febbre. No? A Padova, bellissimo. Ma che vuol dire, dai? No! Su. Beh, occhio al morbillo. Dici qualsiasi tu al morbillo? Provvedimento sei, che Cruciani, riguarda. Hai il morbillo? Vai via. Ti misuro la febbre per strada. Via a casa subito qualsiasi in quarantena. Qualsiasi provvedimento. Ma io non so, adesso stai parlando su. Del provvedimento su Ebola? Certo, allora, provvedimento su Ebola serve al sindaco per dire. Serve al sindaco per dire. Io sono il primo cittadino e sto cercando di fare qualcosa per la città per evitare. No, non sta facendo per la città niente. Perché sai, vabbè, anche tu che è un provvedimento strumentale e politico. Perché no, politico ovvio perché lo fa un politico, ma strumentale, dove si agita la paura di Ebola e non ha nessuna efficacia. Perché cosa vuol dire? Uno arriva a Padova e poi va a 30 km a Vigonza, a 10 km da Padova, e ci sono a Vigonza, toto fregato, Bitonci. Ma che stupidaggine vabbè. È? Volevo salutare affettuosamente Cruciani e il piccolo Parenzo. Te lo ricordi il nostro amico Rosario Marciano? Beh, sì, caro Marciano, il nostro amico Rosario Marciano, sì, sì, Marciano lo ricordo, ha messo in collegamento le scie chimiche e quello che è accaduto a Genova. Ma cosa sono esattamente le scie chimiche? Ma non lo so, a me delle scie chimiche, te lo dico la verità, non me ne frega un cazzo. Meno male. Cioè, delle scie chimiche non mi frega nulla. Chiunque meno mi male. Parla di scie chimiche, metto ma mano alla pistola e divento pazzo. Non voglio sentir parlare di scie chimiche. Non voglio sentir parlare in maniera assoluta di scie chimiche. Divento pazzo. C'è una relazione tra le scie e quello che è successo ad esempio a Genova? Beh, io ritengo che se non c'è una relazione diretta, c'è comunque una relazione indiretta. Se noi impediamo le precipitazioni in una zona, abbiamo poi, come conferma anche Luca Mercalli, il problema che l'acqua da qualche parte si deve cadere. Tu hai capito qualcosa o no? Assolutamente nulla. Senti quest'altra cosa, è un po' lunghetta, sentila, sentila. Anche quest'anno, e quindi pochi giorni fa, erano previste precipitazioni di forte intensità sul ponente Ligure. Sì. E guarda caso invece il giorno successivo qui si verificò il finimondo di passaggi di aerei a bassa quota che si occuparono di distruggere la perturbazione. Certo. Si notava che c'era un fronte ad ovest di nube igroscopica, di non copertura c'è dubbio. Igroscopica come la definisco io, e cioè una copertura composta da espansione di scie chimiche, e ad est c'era la stessa situazione, quindi sì, si era creata una sorta di cuneo, di trappola, di cuneo idroscopica, che lasciava una zona libera che era proprio un triangolo capovolto che partiva dal Mar Ligure e che arrivava proprio sulla Liguria centrale. Sì, capito Parenzo? Meno di prima. Le scie chimiche... Ma le scimmie chimiche forse sono. Le scimmie quelle in testa, cioè, i nubi fragili uno, no. Poi non puoi dire che... nulla con queste persone che ti querelano, ti portano in tribunale. Non so lui o da altri chimiche. Matti. Cioè no, Matti non è che Marciano è matto. Altre persone che hanno delle idee bizzarre ti portano curiose. In tribunale. Ti portano in tribunale. C'è un tizio, un avvocato, anzi no, un ex magistrato, che io gli ho detto che era un po' mattarello, che aveva delle idee un po' folli. Sì. Ha fatto causa in a tribunale. Quante cause giuro. Hai tu al momento? Ma non lo so, 15-20, non lo so. Ma vanno tutte nel nulla la maggior parte. A proposito di cause, queste sono state cause. Ti ricordi ieri quando hai parlato, ieri mi viene l'accento piemontese, del tartufo? Hai fatto quel paragone, sì, tartufo. Il tartufo è il preservativo, il lubrificante. Mi ha scritto, il lubrificante del preservativo. Mi ha scritto poco fa il signor Massimo Scavino, che è assessore al comune di Alba, dicendo: caro David, di al tuo collega Cruciani la seguente riflessione sull'indotto. E che vogliono fare? Vogliono portarmi in tribunale, no, pure loro? Tutt'altro, non lo so. Però siccome hai riso il tartufo. tartufo. Ma non ho il riso, ho detto che a me nel ricorda. Nel periodo del tartufo arrivano sulle colline delle Langhe circa 65.000 turisti, hai capito? E allora? Che soggiorno allora? Complessivamente ma per circa 140.000 giornate. Ma non capito, ma lì. Chi se ne frega? Ricorda ma giustamente l'assessore di Alba. Ma sono contento se arrivano sempre più turisti ad Alba. Il signor ma, Massimo ma Scalino. Ma questo cosa vuol quindi dire? Che i tuoi paragoni, perché non è che la gente è tutta come, i tuoi paragoni sui profumi, su cosa ti ricorda il tartufo, eccetera. Beh, ma che c'è? Quelle sono cose mie. Io ho detto, ma a me il tartufo non piace tantissimo, anzi non piace proprio, perché spesso mi ricorda, spesso ancora, il tartufo, l'odore del tartufo, che è buonissimo, sicuramente piace a molte persone, e viva il tartufo, viva la produzione italiana, vive i turisti che vanno ad Alba, eccetera, eccetera. A me il tartufo ricorda il lubrificante dei profumi. Ma perché sei malato in testa? Ma no, ma è così. Quello, ma che sei malato provate, in testa? Fate un paragone. Mentre acquistate o gustate, ecco, il mangiatevi tartufo, anche un preservativo. No, aprite un preservativo. Aprite un preservativo. Ma mettetelo, io... mettetelo. No, ma guarda, ma ce l'avevo uno qua in tasca, adesso non ce l'ho come più. Come mai ce l'hai sempre in tasca? Ma... ecco, no, perché allora, per come la mai bisogna, non c'è no? più ora? Ecco, no, ecco, l'altra non ce domanda adesso, è come no, mai non c'è più? Ho cambiato pantalone, ho cambiato pantalone, non ce l'ho più. Alessandro Milano, Alessandro. Alessandro Milan? No, Alessandro da Milano. Ah, Alessandro da Milano. Ciao a Milano. Ciao ragazzi! Vai, dimmi, dimmi. Bella zio, sono Lupo Alberto. No, beh, Lupo Alberto che vuol dire? Alessandro, a parte che non ti questo sento, giovane, ti sento lontano, qua, telefonino, auricolare, eccetera. Appoggia, appoggia la bocca sulla cornetta, qualunque essa sia, telefonino, telefono fisso, eccetera. Alessandro, dimmi, dai. Vabbè. Maurizio Oristano. No, Maurizio? Pronto? Sì, dai, Maurizio, però non fatemi queste cose con i telefoni, dai. Cruciani, abbi pazienza. Sei col viva voce, dai, su. No, no, ti giuro, sono in ascensore. Non me ne... allora, in ascensore esci prima, dai, esci. Ciao. Allora, volevo dirti... Allora, intanto... Non si sente niente, Gio da Torino, dai, forza. Dai, Gio. Ragazzi, oh... Ciao Giuseppe, allora in pratica io mi faccio chiamare Gio, ma se lo sai chi sono, sono Luciano. Sì, Luciano mio nonno, dai su, non fare... Zapparini, ah no, facciami serie, dai, veramente, ascolta, dai. Senti una cosa, voglio chiederti una cosa, voglio dire due cose, anzi. Una, non so se l'avete detto o qualcuno l'ha detto, ma Di Grillo, che è andato a Genova, è vero, è stato criticato, ieri sulla stampa Cremelino l'ha massacrato con la sua rubrica che fa. Però non c'è nessuno che dice che è l'unico che è andato comunque. Mm? Voglio dire, è andato a prendersi. Ma l'unico, ma non è un merito andare a Genova, ci vuole poco andare a Genova, basta spostarsi. Basta spostarsi. Con l'abito addirittura lì, per cui di che stiamo parlando? Ho capito, ma non è neanche dagli altri dove erano, non c'era nessuno. Non c'era nessuno. Ma che vuol dire meglio se non c'era nessuno? Bisogna lasciare che i politici restino dove stanno negli uffici a fare quello che devono fare, non in mezzo alla gente a non fare nulla mentre c'è una tragedia. Bello, bello, bello. Vabbè, ciao amico mio, ciao, ciao. Allora Parenzo, nei giorni scorsi è iniziato un grande dibattito, grazia o no per Fabrizio Corona? Sì. Diciamo subito, dalla parte della grazia ci sei tu, sì. David Parenzo, sì, vero. Marco Travaglio, sì. Adriano Celentano e tanti altri. No, non è una brutta compagnia. No, amico, ho detto che è brutta. Contro la grazia, il sottoscritto, ecco, conduttore di questa trasmissione. C'è anche il direttore di liberoquotidiano.it, il responsabile di liberoquotidiano.it, bisogna dire la verità, l'amico, come si chiama, Pietro Senaldi, se non sbaglio, che ha scritto un bellissimo articolo sul perché non concedere la grazia a Corona, e secondo me c'è, contro la grazia, una maggioranza silenziosa, magari mi sbaglio, è con noi stasera il presidente dell'associazione antiracket SOS Italia Libera, Paolo Bocedi. Buonasera. Eccovi. Caro ciao. Bocedi, come stai? Sì. Bene, ma non sapevo che tu eri contro la grazia. Io sono contro. Non ti avrei risposto. Vabbè, che vuol dire? Non è che puoi avere e che vuoi giocare sul velluto, amico mio. No, però scusa, non puoi essere io non parlo di grazia, nessuno qua parla di grazia, non avete capito nulla. Cioè, scusa, Travaglio ha parlato Corona, di grazia. No, scusa, Corona chiede gli arresti domiciliari, Corona chiede di scontare la sua pena agli arresti domiciliari. Giusto. Chiede anche la grazia, evidentemente. Ma dai. Io di questo non entro in merito. Io volevo però. No, però scusami, Paolo, un attimo solo, sì, adesso parlerai di quello, scusi, che vuoi. Io sono quello che manda in galera le persone, sono quello che ha, che combatte la criminalità organizzata, l'Ndrangheta, dal 1991. Sì. Ho fondato la prima associazione nazionale anti-racket. Sì. Mi hanno sparato, mi ho con la scorta, mia figlia a 4 anni andava a scuola con l'alfetta dei carabinieri, posso dirlo, Caponnetto mi chiamava se quando uscivo ero protetto. Posso dire che secondo me questo cazzo di Corona non merita di stare in galera 15 anni, lo posso dire, bravo, o no? Bravo, bravo. Ma certo, allora, che lo puoi dire anche a voce alta. Lo puoi dire anche a voce alta. Posso dire che ieri sera questo signorino Chiesa non si deve permettere di lanciare schizzi di fango su Travaglio, uno dei giornalisti veramente, è uno dei giornalisti veramente liberi, accusando, insinuando che lui ha difeso Corona perché per probabili accordi che avrebbe fatto col padre, no, di Corona. Beh, lui ha detto questo è un asino, questo è una, no, lui non ha detto questo, lui mi ha chiamato tramite Facebook, mi ha detto un sacco di cose, poi mi sono informato per il Piacentino. Allora lui è stato anche indagato per associazione per delinquere, prostituzione minorile. Lui è quello che ha accusato Berlusconi di essersi scopato due minorenne e poi invece i giudici l'hanno clamorosamente smentito. Lui è quello che andava a mangiare a casa di Corona. Vabbè, adesso dai, ti assumi pure tu la responsabilità di quello che ti... Siccome Corona è in disgrazia, vabbè, queste cose lasciamo perdere allora. No, però scusami Paolo, adesso andiamo in pubblicità. Salvatore Rina, poi torno con te. Non è che sia, come dire, scritto nelle tavole della legge che se uno è contro la grazia a Corona è un criminale, oppure, cioè, ci sono moltissime persone che sono nella condizione di Corona con più condanne e che non è che hanno tutti gli appoggi che ha Corona dall'esterno in questo momento. Ma ci mancherebbe altro, che possono chiedere la grazia. Io non ho nulla, figuriamoci, io vorrei Corona libero, fuori. Il problema è che tutti i suoi comportamenti negli ultimi anni erano indirizzati al carcere. Ciao, mi fate ridere, siete troppo simpatici. Mi ha nel frattempo chiamato anche Paolo Liguori, direttore Mediaset, eccetera, il quale mi ha detto: sono a favore della grazia a Corona, sì, a Fabrizio Corona. Preciso. Sono l'opposto di Travaglio, ma a favore, e raccoglierò le firme a Fatti e Misfatti, che è una trasmissione che va in onda su TG24, la dunata dei refrattari. Vabbè, giusto. Mi ha anche scritto la signora Fagnani, Francesca Fagnani, sì, che mi dice che ha intervistato Trezeguet, sì, il quale le ha detto che non si è mai sentito minacciato da Corona. Vabbè, e che quindi dire, la grazia andrebbe chiesta proprio su quella, su questa questione qui, capito? Quindi, allora, cari amici, Fagnani, è con noi Paolo Bocedi, brava, presidente dell'associazione anti-racket, sì, sì, Italia Libera, il quale non ho capito bene se lei è a favore della grazia o no, però Bocedi, scusi, perché posso dire una cosa? Dimmi. 3 minuti, allora intanto vi ringrazio di avermi invitato perché è una cosa che ci tenevo proprio. Allora io voglio dire che Corona mi stava anche sui coglioni per il suo atteggiamento, non lo conosco, non l'ho mai incontrato, io ho tutta un'altra vita, io faccio da 30 anni faccio arti marziali, faccio paracadutismo, mi occupo di criminalità. Ma vai in giro con la pistola? Io ho mandato in galera persone molto pericolose, se no una scorta non me la danno. Ma vai in giro con la pistola? C'hai il porto d'armi, Paolo? Per forza, certo, con porto d'armi per difesa personale da 22. Ma c'hai la pistola dietro spesso? Una calibro 9 Parabellum. Lili, portami il tartufo. C'è mia moglie che mi stava mangiando un tartufo che mi ha fatto incazzare prima. Il tartufo quello bianco, sì. Tartufo bianco, quello che sa di preservativo. Ma non è vero. Ma come no? È uguale. Ascolta, allora ragazzi, Salvatore Rina, Giuseppe Graviano, Nini Giuffrè, Mario Moretti, Francesca Schiavone, Gianfranco Stefanin, Roberto Savi, Marco Furlan, Vincenzo Vinciguerra, Giuseppe Setola. Ma che cazzo ci sta a fare Corona con questi mafiosi? Certo. Brava quella donna che ha detto che bravissima. Lo sapevi, no, che era giornalista? Fagnani, scusa, però abbi pazienza. No, scusate, non lo sapevo. Lo sapevate che nel carcere di Opera c'è una malattia che si chiama tubercolosi? Lo sapevate che Corona, se avete letto il Fatto Quotidiano oggi, sì, abbiamo letto, sì, mi ha scritto una lettera, ecco. Che cosa c'era in questa lettera? Da 2 mesi io aspetto che il dottor siciliano mi scriva, mi autorizzi ad andare a trovare Corona, che ho fatto, l'ho mandato il 23 di agosto, il 2 di settembre, e ringrazio, sono in diretta, giusto? Sì, sì. Ringrazio il ministro della giustizia Orlando, sì, che mi ha fatto chiamare, gentilissimo, mi ha fatto parlare con il capo delle carceri, sì, che è rimasto scandalizzato dal comportamento del dottor Siciliano, perché non mi ha, cioè, io non voglio, sono un umile, cioè, tu che cosa vuoi fare? Vuoi andare però a trovare Corona? Cacchio, ma vuoi darmi una risposta e dire perché, per quale motivo, cioè, io entro anche in mutande, non porto lime, cioè non ti fanno andare da Corona, questa è la sostanza. Ma lui ha chiesto di me di incontrare, per quale motivo? Lui secondo me è, cioè, è il 41 bis o no? Bah, che per quale motivo? Per quali motivi? Lo 41 bis, che se non me lo fa vedere, non ha i benefici di legge che tutti i detenuti hanno. Ma ci sarà qualche motivo? Fuori, ma fuori, che Gerardo Curcio fuori, Cabobo fuori. Però quasi, scusami, Boccetti, cioè, però non ha ammazzato nessuno. Paolo. È un ragazzo che si è rovinato con le sue mani. Però credetemi, bravo, l'estorsione, esatto, di cui l'articolo 629. Ma quello lo lasci giudicare i magistrati. Non c'è estorsione, come ricorda. Ma lo lasci giudicare i magistrati, che ci sono delle sentenze passate in giudicato? Oppure c'è stato ma un complotto? Ma se la vittima nega, scusa, questo è vero. Io non voglio parlare di complotto, però se lui il processo lo faceva, allora lì è un problema di Subalpini, non di Meneghini. Come di Subalpini? Che va, di Torino. Di Subalpini è un problema, cioè? La presa a Torino, la condanna, è un problema di Subalpini, cioè? Non di Meneghini. Cioè, che vuol dire? No, ma di, parla chiaro, parla chiaro. Ho già delle querele per avere la verità. Tu pensi io che ci sia i poteri forti di Torino abbiano fatto condannare Corona? Posso ringraziare la Digos di Varese per la grande operazione che ha fatto e gli avvocati Cicconi, Lanci, Badoglio. Vabbè, ma adesso non è che siamo qui, scusami Paolo. No, adesso, però sono persone che stanno dando una mano a Corona. Posso dirti che lo faccio gratuitamente? Ma certo. Che non voglio soldi. Io voglio capire soldi. Una cosa, Paolo. Tu scusami. Sai che lo vuoi dentro? Allora io no. No, ma ti ruba le donne. Altrimenti. Ma vai a cagare, dai. Non è quello il punto. Ma figuriamoci. Lo vuoi dentro? Ma perché ragazzi, è un concorrente su piazza. Scherziamo amico su queste, mio. Non scherziamo su queste cose. Non scherziare su queste cose. Allora devi dire la verità. Non perché scherziare. Tu allora devi dire la verità, cosa? Fino in fondo. Ma in questo caso è un atto di umanità, ma di pietà, ma è anche un atto di uno Stato che prende atto del fatto che il signor Trezeguet, ad esempio, ma che non si è sentito minacciato minimamente, quindi vada a scontare la pena. Ma lo dice adesso, non c'è l'aggravante dell'autista. Ma scusami un attimo, bravo. Paolo. Domani chiamerò anche il cappellano del carcere, poco belli. Il capo delle carceri mi ha detto, la faccio chiamare, le farò sapere. Non ha fatto sapere nulla. Non ha fatto sapere nulla. Corona, come mai mi ha scritto? Ma che condizioni sta fisiche? Male. Io voglio capire perché ha perso dei denti, perché è dimagrito, perché piange, perché aveva quegli occhi del cazzo in questa cacchio di intervista scavati. Voglio capire perché non me lo fanno vedere. Io entro anche in mutande, entro senza pistola, senza scorta. Ragazzi, io vado a Zingaleri, fratelli Sergio e Zavattieri, persone legate all'Andrangheta. Ho fatto arrestare una barca di persone e se ne sono orgoglioso. Ti dico che Caponnetto mi chiamava per congratularsi, il capo di Falcone. Sì, però Boccetti, scusami un attimo, secondo me Corona merita di uscire agli arresti domiciliari. Va bene, poi la grazia magari, però scusa Boccetti, la grazia parziale, dammela la parziale. Però Boccetti, scusami un attimo, io alla cosa mi fa impazzire. Lucido Boccetti, no, mi lucido, fa impazzire lui che ha messo in carcere i criminali. Appunto. E Corona ha una lunga serie di reati commessi, lunghissima. Ma che vuol dire? C'è un cumulo di pena, c'è un cumulo di pena. Ma ti dovresti vergognare per quello che dici. Ma vergognare. Tu che sei un uomo della legalità, ti dovresti vergognare di quello che dici. No, non vergognare tu a dire cazzate, ricordatelo, perché ci sono assassini liberi, la Franzoni. Ma che ma c'entra? Ma quella è libera Curcio, dopo diversi Curcio anni. Che fa ma Curcio, che vuol dire? È stato in galera tanti anni, Curcio. Dai, non dire sputtanate pure tu, Paolo. Ragazzi, come il capo delle Brigate Rosse, tanti anni. Ma cosa vuol dire? Questo deve stare in carcere a vita. Che l'umanità, ma chi di un dice sistema penitenziario comunque, si vede anche da questo lui l'umanità. Merita, lui ha scontato 2 anni, vogliamo dargli gli arresti domiciliari? Ma quello, ma scusa, ma ci saranno le procedure di legge per dargli i domiciliari, oppure lo devi decidere tu, caro Paolo Boccetti? Ragazzi, mentre tu parlavi quando ti facevi ancora, lasciamo perdere, non voglio essere volgare, io ero nelle aule di tribunali con le vittime della criminalità, ma che c'entra? A convincere a denunciare, perciò non parla, cerca di parlare bene e non rompere troppo i coglioni. No, scusami, Boccelli, scusami un attimo, tu sei un ultimo della classe. Ma chi ha detto? Non merita la grazia, secondo me, merita una grazia parziale. Lui vuole scontare la sua pena. Però merita i domiciliari. Tu dall'alto della tua, come dire, dal fatto che hai questa carriera. Ma i 6.000 associati che mi stanno sentendo. Questi 6.000 associati, certo. Decidi tu se deve avere i domiciliari. No, o no. Io non decido, io mi metto in punta di piedi, io rispetto la magistratura, ci ho parlato di Caponnetto, io sono stato l'unico rappresentante anti-Iraq nel 2002. Ma va benissimo, a parlare davanti a tutto CSM, ho contribuito alla commissione, dell'antimafia con Luciano Violante, con Pino Arlacchi. Io non ho detto che non merita i domiciliari. Cavaliere della Repubblica. In Italia un sacco di gente va ai domiciliari, non ti preoccupare, andrà anche lui ai domiciliari prima o poi. Ma la grazia, amico mio, ma come si può pensare che Napolitano dia la grazia a Corona, che ha una sfilza di reati grossi così? Dovrebbero... Ma lui non chiede la grazia, chiede una grazia. Ragazzi, ma c'è una campagna per la grazia promossa. Ma è incompatibile col carcere, lì c'è un aggravante. Tutti stanno male in carcere. Che vuol dire? Stanno male in carcere. È normale che sia così. Ascoltami, non meritava questa aggravante che non gli consente di andare agli arresti domiciliari, ma proprio quello che ha detto la giornalista, l'aggravante è l'autista che ha smentito di essere... Ma come dite che dovete caccare? Ma ho capito, ma il fatto che Trezeguet adesso dica che lui non è stato minacciato non significa nulla, ci sono delle pronunce di tribunale. Cioè, non potete fare illegalitari quando conviene, non potete essere dalla parte della legge solamente in alcuni casi e in altri no. L'umanità del sistema carcerario, allora, lo chiediamo per chiunque. Allora, ti dico in anteprima, te la dico, guarda, non volevo dirla. Dimmi. Allora, il capo delle carceri mi ha detto, non ti posso dire chi è per rispetto, per amor di Dio, se non becco una querela. Allora, il capo delle carceri me l'ha detto. Uno dei capi delle carceri, stamattina e anche l'altro giorno, mi ha detto che Corona ha preso una condanna ingiusta per colpa vostra, per colpa della stampa, delle televisioni. Ma chi te l'ha detto questo? Il capo delle carceri, la colpa. E poi ho parlato anche di Canale 5 e ha dato la colpa anche a Canale 5 quando gli ho detto che devo andare in televisione, perché lo hanno massacrato. Lui ha detto che lui ha preso, condannato a furor di popolo, questo dice. Aveva la televisione a disposizione, andava da Mentano un giorno sì e l'altro pure. Ma conto che questo ragazzo di 40 anni sta morendo in galera? Paolo, è un mafioso, io mando in galera i mafiosi, non i coglioni che vanno con le ragazzine in discoteca per i tatuaggi. Avrò rotto i coglioni. Subalpini, non Meneghini. Il mio messaggio l'ho mandato. Subalpini, ma non Meneghini. Va bene, d'accordo. Dire qualcosa a quello che ha detto a Francesco Chiesa Soprani, che ha detto quelle cose l'altro giorno da noi? Mi ha disturbato il fatto che abbia parlato male di Travaglio, che Travaglio è uno dei pochi giornalisti veramente liberi. Questo signore è stato indagato per un sacco di reati. Non ha diritto di parlare. Per quale motivo era suo compagno di merenda, poi quando questo è caduto in disgrazio l'ha sputtanato? Perché è un coglione. Mi spiace dirlo, è un coglione, è una capra lessa di quelle giganti, perché non è possibile. Ma come mai io, una cosa, per quale motivo da 2 mesi io non posso andare a trovare Corona? No, ma questo sicuramente non è perché... mafioso. No, ma questo per carità, ma io su questa cosa qui, eccetera, sulla grazia non transigo. Sui domiciliari, figuriamoci, se ha diritto ai domiciliari, lo decideranno i magistrati secondo le regole. Ma certo, assolutamente sì, ma non lo decido io, non so la situazione come un sacco di carabinieri che mi stanno vicino, i poliziotti me lo dicono. Non va benissimo. Una grazia parziale, lui vuole scontare la sua pena. Però a casa mandiamolo agli arresti domiciliari. Uno che ha preso 9 anni, poi ridotti a 7 i domiciliari. Va bene, allora mandiamo tutti i domiciliari, ma va benissimo. Se ci sono delle regole, va benissimo. Ma è un assassino. Ma sai quel. Non faccio il nome, una persona che l'anno scorso ha ucciso la fidanzata e l'ha bruciata viva. È incompatibile col carcere, ma vi rendete conto? Cababo ha preso 12 anni, 13 anni. Scuola ha ucciso 4 ragazzi. Questo qua deve prendere 15 anni. Ma non è... Il capo delle carceri mi ha detto che è una condanna ingiusta, che lui l'hanno ammazzato. Il capo delle carceri. Ciao Paolo, a presto, dai, riaggiorniamoci. Ciao. Saluti, caro. Andiamo con Federico Firenze, vai. Federico. Sì, ciao a tutti. Dimmi. Senti, un intervento velocissimo, volevo soltanto dire che mi fa piacere ci siano così tante persone anche illustri che cercano di far ottenere la grazia a Corona, e allo stesso tempo li vorrei esortare a fare lo stesso per i tanti signor nessuno, per i tanti miseri morti di fame, sì, che sono in carcere magari per motivi e non si chiamano in un certo modo e non vengono benissimo, non un'altra vengono. Cosa andiamo a Bologna, Giovanni, veloce, dai, 30 secondi Giovanni. Allora, io innanzitutto, cioè, con Parenzo non parlo neanche, perché Parenzo è il classico paraculo, scusatemi la parola. Vabbè, amico mio, non vuoi parlare con Parenzo, però io ti devo lasciare e ci sentiamo domani. Non c'è più tempo, a domani 18.30, ciao. E poi sai cosa mi stupisce, Cruciani? Che Roberto Napolitano, che persona così seria, non taccia, non le dica mai niente, io non lo so. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Pungete, ciao.